avanti. Io però ci vedo a portare il cane, dimmi. Vabbè dai. No, perché devo scambiare un filo, per me se rendeva meglio la radio. No, va, io veloce però. Oh Rufo, guarda vedere com'è. Ah, te ma non è uguale. Ecco, va, lo riattacchiamo davvero. Sono stato teleficcato. Andava bene, dai. Ho detto, stavo teleficcato. Ho grandinato. È un bel di grandine ha fatto, Rufo. Diciamo che ha imbiancato un po' per l'Italia, anche qua a me, un po' di... ce n'è ancora. E mi hanno detto che ho visto una foto a Coso, per Sabonorba, dice che era bianco. E anche qua ce n'è ancora, di fronte a noi, con le scuole, là. Ce n'è ancora di ghiaccio. Infatti c'è freddo stamattina, ma perché qua si sta bene, c'è caldo. No, non è mai freddato. E tu fa un po' di basso, gli con la prefigata e te la casa e dorra. A frappi, arrivo subito. Eia. C'è qualcuno, cambio!